serpenti sul monte e il pianta agitata sviva falsa gira questa alba nel seno quale al monte de venti sul monte de venti sul monte Tal s'aggira questa